Capitolo 104. La morte di Teseo. Durante l'assenza di Teseo, trattenuto nel Tartaro, i Dioscuri riunirono un esercito di lacedemoni e di arcadi, marciarono su Atene e chiesero che Elena fosse loro restituita. Gli ateniesi risposero che Elena non era in città, né si sapevano dove si trovasse, e i Dioscuri allora cominciarono a devastare l'Attica, finché gli abitanti di Decelea, che non approvavano ciò che Teseo aveva fatto, li guidarono ad Afidna, dove essi ritrovarono la sorella. I Dioscuri rasero Afidna al suolo, ma i Decelei sono ancora oggi esenti dalle tasse e hanno il diritto di sedere ai posti d'onore durante le feste spartane. La loro terra fu la sola a essere risparmiata durante la guerra del Peloponneso, quando l'esercito spartano invase l'Attica. Altri dicono che il nascondiglio di Elena fu rivelato ai Dioscuri da un certo Academo o Echedemo, un arcade giunto in Attica per invito di Teseo. È certo che gli Spartani lo tennero in grande onore finché visse e nelle loro invasioni successive risparmiarono il suo podere sulle rive del Cefiso a 6 stadi da Atene. Questo podere è ora chiamato l'Accademia. È un bel giardino irriguo, luogo d'incontro dei filosofi che espongono le loro teorie laiche, irreligiose, sulla natura degli dèi. Marato guidò le forze arcadi contro l'esercito dei Dioscuri e, obbedendo all'ordine di un oracolo, si sacrificò alla testa dei suoi uomini. Altri dicono che la città di Maratona prese il nome da lui e non da Maratone, padre di Siciane e di Corinto. Ora Peteo, figlio di Orneo e nipote di Eretteo, era stato esiliato da Egeo e i Dioscuri, per fare un dispetto a Teseo, richiamarono suo figlio Menesteo dall'esilio e lo elessero reggente ad Atene. Codesto Menesteo fu il primo demagogo. Durante l'assenza di Teseo, egli si ingraziò il popolo, rammentando ai nobili i privilegi cui avevano dovuto rinunciare in seguito alla federazione, e dicendo ai poveri che essi erano stati derubati della loro terra e privati della loro religione per divenire sudditi di un avventuriero di oscura origine. Costui d'altronde aveva lasciato il trono vacante e correva voce che fosse morto. Quando Afidna cadde nelle mani dei Dioscuri e Atene stessa fu minacciata da vicino, Menesteo indusse il popolo ad accogliere i Dioscuri in città come benefattori e liberatori. Costoro in verità si comportarono molto correttamente e chiesero soltanto di essere ammessi alla celebrazione dei misteri eleusini, come già aveva fatto Eracle. Gli ateniesi accettarono e i Dioscuri divennero cittadini onorari di Atene. Afidno fu loro padre adottivo, così come Pilio era stato il padre adottivo di Eracle in circostanze analoghe. In seguito si tributarono a essi onori divini quando sorgeva in cielo la loro costellazione, in segno di gratitudine per la clemenza che avevano dimostrata verso il popolo. Ed essi riportarono a Sparta Elena, con la madre di Teseo, Etra, e la sorella di Pirito come ancella. Taluni dicono che Elena era ancora vergine, altri che era rimasta incinta di Teseo e che, ad Argo, sulla via del ritorno, diede alla luce una bimba Ifigenia e consacrò un santuario ad Artemide in segno di riconoscenza per il parto felicemente avvenuto. Teseo, ritornato dal Tartaro poco tempo dopo, innalzò subito un altare a Eracle il Salvatore e riconsacrò a lui tutti i suoi templi e i suoi boschi sacri, a eccezione di 4. Tuttavia, egli era stato così indebolito dalle torture subite e trovò il popolo di Atene così diviso in fazioni che non fu più in grado di mantenere l'ordine. Fece dunque uscire segretamente dalla città i suoi figli, che ripararono in Eubea presso Elpenore, figlio di Calcodonte, ma altri dicono che i figli di Teseo erano già fuggiti prima del suo ritorno, e dopo aver solennemente maledetto Atene dall'alto del monte Gargetto, salpò per Creta dove Deucalione aveva promesso di dargli asilo. Una tempesta spinse la nave fuori rotta e Teseo fu costretto ad approdare nell'isola di Sciro presso l'Eubea, dove re Licomede, benché grande amico di Menesteo, gli fece una splendida accoglienza degna della sua fama e del suo lignaggio. Teseo, che aveva ereditato delle terre in Sciro, chiese il permesso di stabilirsi nell'isola, ma Licomede da molto tempo considerava quelle terre come sue e, col pretesto di mostrare a Teseo fin dove giungessero i loro confini, lo guidò su un alto promontorio e di là lo fece precipitare in mare, dicendo poi a tutti che era caduto incidentalmente mentre passeggiava dopo cena il cervello annebbiato dal vino. Menesteo, ormai signore incontrastato di Atene, fu uno dei pretendenti di Elena e guidò l'esercito ateniese a Troia, dove ebbe fama di grande stratega, ma morì in battaglia. Gli succedettero i figli di Teseo. Si narra che Teseo avesse rapito con la forza Anasso di Trezene e che si fosse giaciuto con Iope, figlia di Ificle di Tirinto. Le sue avventure amorose procurarono tanti guai agli ateniesi che costoro non seppero apprezzare gli autentici meriti di Teseo se non molti anni dopo la sua morte. Alla battaglia di Maratona, tuttavia, il suo spirito sorse dalla terra per rincuorarli e, quando la vittoria arrise infine all'esercito ateniese, l'oracolo delfico ordinò che le ossa di Teseo fossero riportate in patria. Il popolo d'Atene, infatti, aveva dovuto subire angherie d'ogni sorta da parte di quelli di Sciro, e l'oracolo predisse che tali angherie non sarebbero cessate finché le ossa dell'eroe fossero rimaste sull'isola. Non era tuttavia facile recuperare le sue spoglie mortali, perché gli Sciri erano tanto testardi quanto audaci, e quando Cimone conquistò l'isola non vollero rivelare dove si trovasse la tomba di Teseo. Cimone tuttavia notò un'aquila che, sulla cima della collina, scavava la terra con gli artigli. Vedendo in ciò un segno del cielo, Cimone afferrò una zappa, allargò il foro praticato dall'aquila e ben presto la zappa urtò contro una bara, dentro la quale si trovava uno scheletro armato di lancia. Non poteva essere altri che Teseo. Lo scheletro fu piamente riportato ad Atene e sepolto con solenne cerimonia nel santuario di Teseo presso il ginnasio. Teseo era un esperto suonatore di lira ed è ora divenuto con Eracle ed Ermete il patrono di ogni ginnasio e di ogni palestra di lotta in Grecia. L'analogia fra le sue imprese e quelle di Eracle è proverbiale. Anche Teseo prese parte alla caccia al cinghiale Calidonio, vendicò gli eroi che caddero dinanzi a Tebe e non partecipò all'impresa degli Argonauti soltanto perché si trovava ancora nel Tartaro quando essi salparono per la Colchide. La prima guerra tra i Peloponnesiaci e gli Ateniesi scoppiò perché Teseo rifiutò di restituire Elena e la seconda perché rifiutò di consegnare i figli di Eracle al re Euristeo. Gli schiavi e gli operai maltrattati, i cui avi si rivolsero a Teseo per essere protetti, si rifugiano ora nel suo santuario, dove si offrono sacrifici l'ottavo giorno di ogni mese. Questo giorno fu scelto forse perché Teseo giunse ad Atene l'ottavo giorno del mese di Ecatombeone e ritornò da Creta l'ottavo giorno di quello di Pianepsione, o forse perché egli era figlio di Posidone. Le feste di Posidone si celebrano infatti nello stesso giorno, poiché 8 è il cubo del primo numero pari e rappresenta l'indistruttibile potenza del dio. Menesteo l'Eretteide, che Omero loda nell'Iliade per la sua eccezionale perizia militare e che regnò ad Atene durante i 4 anni di permanenza di Teseo nel Tartaro, pare fosse il suo mortale gemello e Core, la controfigura ateniese del Lapita Pirito. Qui egli ci si presenta come il prototipo dei demagoghi ateniesi che durante la guerra del Peloponneso caldeggiarono la pace a ogni costo con Sparta. Ma il mitografo, pur deplorando la sua tattica, bada bene di non offendere i Dioscuri, che i marinai ateniesi invocavano quando una tempesta li coglieva in mare. Il tema del farmacos alato si riaffaccia nei nomi del padre e del nonno di Menesteo e nella morte di Teseo stesso. Teseo, infatti, fu gettato in mare nell'isola di Sciro pietrosa, e ciò fa supporre che nella raffigurazione da cui fu tratta la leggenda, la parola Scir, una forma abbreviata di sciroforia che spiegava perché il re precipitasse da una scogliera, fosse confusa con il nome dell'isola. Se l'ipotesi è esatta, la vittima avrebbe dovuto essere Licomede. Il suo era un nome ateniese piuttosto comune. In origine pare i sacrifici venivano offerti alla dea Luna nell'ottavo giorno di ogni lunazione, quando cioè il satellite entrava nella sua seconda fase, poiché quello era il momento più propizio per le semine. Ma quando Posidone sposò la dea e si impossessò del suo culto, il mese divenne un periodo solare, non più in rapporto con la luna. L'importanza mitica di Marato, Finocchio, sta nel fatto che si usavano gambe di finocchio per trasportare il fuoco sacro da un focolare centrale ai focolari privati dopo la loro estinzione annuale. Prima di chiudere la storia di Teseo, vorrei aggiungere un'altra nota di commento al vaso di Tragliatella, dove si vede il re sacro che fugge da un labirinto assieme al successore. Infatti non avevo ancora visto la riproduzione dell'altra faccia del vaso, che rappresenta il prologo a tale fuga ed è di uno straordinario interesse. Una processione di uomini a piedi guidata dal re sacro disarmato. Ciascuno dei sette uomini che scortano il re regge tre giavellotti in una mano e nell'altra uno scudo con un orso per insegna, mentre il successore armato di lancia chiude la processione. Questi sette uomini rappresentano evidentemente i sette mesi di regno del successore, che vanno dal raccolto delle mele fino a Pasqua e l'orso è l'insegna del casato. La scena si svolge nel giorno della morte rituale del re e la regina Luna gli viene incontro. È una figura che incute timore, ricoperta dal peplo, con un braccio minacciosamente appoggiato sull'anca e l'altro proteso per offrire al re la mela, che è il passaporto per il paradiso. E le tre frecce nelle mani degli uomini del seguito sono chiaro presagio di morte. Il re è tuttavia guidato da una piccola figura femminile, ricoperta di un peplo come la regina, e potremmo vedere in lei la principessa Arianna che aiutò Teseo a fuggire dal labirinto della morte a Cnosso. Il re dal canto suo mostra con ostentazione come scongiuro contro la mela l'uovo di Pasqua, l'uovo della resurrezione. Nella stagione di Pasqua si eseguivano in Britannia e anche in Etruria le danze di Troia nei labirinti tagliati nella torba in Britannia e in Etruria sui campi dopo il raccolto. Un uovo sacro etrusco di lucida trachite nera, trovato a Perugia, con una freccia in rilievo che corre tutt'attorno, è appunto un uovo pasquale.